Beh, Giuseppe, come stai? Vabbè, l'importante è che sei uscito, Giuseppe, dai. Tutto bene, sì, ti sei ripreso, tutto a posto? Non ci voleva questa mazzata, eh? Vabbè, Giuseppe, l'importante è che, dai, sia andata bene, ci hai fatto un po' preoccupare, eh? Io non ti ho telefonato per non romperti le scatole, ma ero in contatto con Valerio, mi ha detto che eri in fase di ripresa, eh? Meglio così. Ti auguro di stare come ti sento, dai, poi appena ho 5 minuti vengo a trovarti ad Alghero, va bene? Io vi saluto, vi stavo ascoltando, ma sto uscendo, quindi no, non posso rimanere in radio. Ciao a tutte e due e buon proseguimento di QSO. Riprendi Giuseppe. Ciao Giuseppe, un abbraccio grande, dai, riservati e stai tranquillo. A te Valerione, fate bene, no, vi stavo ascoltando da poc'anzi, ma c'avevo gente. Sono andati via, però devo uscire, non lo so cosa devo fare, sono già le 7:20, mi sistemo il cane perché stava piovendo, adesso non sta piovendo più lo porto, dai, al limite se ci siete ci sentiamo dopo, se no alle prossime. Vi auguro buon proseguo a tutti e due, dai, alle prossimine, ciao!